Buongiorno, sono Paolo Bortolotti, il docente di comunicazione. Ho realizzato questo audio per spiegarvi meglio cosa vi chiedo di fare prima del prossimo incontro. Vi chiedo di chiamare una vostra compagna di corso via Skype, gli indirizzi e chi chiamare lo trovate specificato nella mail. Dovete chiamare chi ha lo stesso vostro colore nella scritta del nome. Una volta pianificata la chiamata, vi chiedo di fare con la vostra compagna due esercizi. Primo esercizio. Piccola riflessione sulla presenza mentale. Vi capita mai di stupirvi quando qualcuno vi rivela gli effetti del vostro comportamento? Cosa significa questo? Gli altri vi dicono mai che il vostro comportamento è inaspettato, che li ha stupiti, che li ha sorpresi? Come sapete dal corso, questo tipo di informazione è un importante feedback sul nostro modo di comunicare e quindi è importante fare in modo che gli altri si sentano liberi di dirci come reagiscono al nostro comportamento. Non trovate? Oppure, se non siete d'accordo, parlatene tra di voi durante la videochiamata. Secondo esercizio, il meglio di sé. Ripensate a un momento della vostra vita in cui avete dato il meglio di voi, in cui avete affrontato con successo una sfida o raggiunto un risultato importante. Può essere un momento speciale o anche un episodio quotidiano. La cosa importante è che abbia generato emozioni positive e che vi abbia fatto sentire bene con voi stessi. Poi rispondete a queste domande e parlatene tra di voi. Che cosa ha fatto in modo, che si sia prodotta una buona riuscita, cioè un buon risultato? Che cosa avete pensato in quell'occasione? Quali pensieri avete fatto rispetto alla situazione e rispetto a voi stessi? Ora, perché vi sto dando da fare queste esercitazioni? Molto semplice, per esercitare la vostra intelligenza emotiva. Una delle conseguenze più gravi di quello che sta accadendo in questi giorni è che si è creata distanza e individualità. Non solo a causa delle restrizioni, ma anche per un atteggiamento diffidente e scostante che rischiamo di dimostrare quando incontriamo le altre persone nelle rare uscite che sono legate alle nostre esigenze quotidiane, quindi lavoro, acquisti di beni di prima necessità. Per molte teorie, tra cui la teoria polivagale, le relazioni sociali sono fondamentali per farci stare bene da un punto di vista biologico. Significa che l'essere umano, per restare in salute e non sviluppare sensazioni di ansia che indeboliscono il proprio sistema immunitario, ha bisogno di sentirsi in uno stato di sicurezza, altrimenti mette in atto meccanismi di attacco, di fuga, impotenza, cosa che molti di noi hanno sicuramente vissuto in questi giorni. Quindi, per sentirsi al sicuro, abbiamo bisogno di sentire che gli altri sono dalla nostra stessa parte. E questo accade sentendo attraverso il tono della voce, lo sguardo, il sorriso delle altre persone. Quindi, anziché con i messaggi sul cellulare, le mail, i social network, è meglio comunicare attraverso le videochiamate o, non potendo, attraverso i messaggi vocali. Secondo la teoria polivagale, entrare in relazione con gli altri è una tendenza naturale dell'uomo che favorisce il suo benessere. Se la comunicazione è buona, ha un effetto calmante e tranquillizzante e potenzia il sistema immunitario. Quindi questi esercizi servono per farvi esercitare in questa esigenza biologica di comunicare attraverso videochiamate o audio, e quindi esercitare questa esigenza e applicarla poi con le altre videochiamate che effettuate con i vostri conoscenti. Bene, buon esercizio e ci vediamo lunedì.